A tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia, e finalmente è tornato a trovarci dopo lungo peregrinare Andrea Zorzi. Grazie, ciao, grazie, Andrea. Ben ritrovato e ben ritrovati. Un piacere che torno. I giri li ho fatti volentieri, però mi sento un po' mancati. Tu a noi di più. 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori. Ho un sacco di cose di cui parlare con Andrea Zorzi, naturalmente, perché abbiamo vissuto una settimana tutt'altro che banale sul fronte sportivo, soprattutto sul fronte calcistico. Intanto vi do la cronaca delle ultime ore, a partire dalla Spagna, Gran Premio di domani a Montmeló, con le Red Bull praticamente irraggiungibili, tanto che Alonso ha detto in condizioni normali sono imbattibili. Si riprendono la prima fila Webber e Vettel, seconda fila per Hamilton Alonso, terza Button Schumacher, quarta Kubica Rosberg, nono tempo per Massa che partirà in quinta fila accanto a Kobayashi. Poi sempre nelle ultime ore, nella notte, nel basket, Cleveland si è ripresa al maltolto al Garden di Boston, quindi ha riequilibrato la serie, ora in vantaggio per 2-1, 124-95, vittoria facile. LeBron James semplicemente mostruoso, 38 punti ma soprattutto 21 nel primo quarto, nell'ultimo periodo praticamente non ha giocato. Phoenix ha la serie in mano contro San Antonio, 110-96 a San Antonio, 3-0 per Phoenix e per Steve Nash. Quindi, come sappiamo bene, almeno saprete forse, che la finale di Eurolega di basket domani sera a Parigi sarà Barcellona-Olympiakos, la finale più scontata, ma le partite non lo sono state poi tanto, perché Barcellona ha fatto fatica a battere il CSKA, ma ancora più fatica ha fatto l'Olympiakos a battere il Partizan Belgrado, di cui abbiamo parlato lungamente ieri, del mio amico Sasha Djordjevic, 83-80 dopo un tempo supplementare e con una magia di Childress a regalare all'Olympiakos quel tempo supplementare. Direi, ragazzini serbi si sono andati davvero vicini a quella finale, vicinissimi. Si parla tanto di budget, 3 milioni di euro costa la stagione del Partizan Belgrado, 16 milioni costano due giocatori dell'Olympiakos, Kleiza e Childress. Ancora una volta è che lo sport è in grado di creare dei simboli, delle situazioni che sono troppo belle, inequivocabili. Si capisce cosa significa provarci fino in fondo, si capisce cosa significa, e ieri Djordjevic ne ha parlato in modo molto chiaro, essere serbi in questo caso. Sì. Significa anche che a volte i soldi non bastano, anche se ovviamente sono un parametro tutt'altro che trascurabile. Però devo dire che ieri ti ho ascoltato, poi tra l'altro con molto piacere, e ho proprio riconosciuto questo atteggiamento che è tipicamente serbo. Tu qualcuno lo conosci nella pallavolo, eh? Sì, sì, sono stati naturalmente avversari da Gerbic a Milkovic, in realtà un po' più giovani di me, perché quando io giocavo c'era ancora la Jugoslavia, quindi c'erano anche i serbi che erano quel cuore di quella nazionale. Però mi ha sempre colpito perché, per esempio, Vladi Gerbic, che poi è il fratello schiacciatore di quello che domani giocherà la finale, Nicola Gerbic con Cuneo, lui è uno che è famoso nella pallavolo per le sue frasi, quelle famose: prima che un Gerbic non giochi una finale, albero di pere farà mele, che sembra una stupidata, ma sei suonato. In realtà questo suonato, se fossi italiano, non è suonato se sei un serbo, perché per davvero hanno un approccio allo sport diverso, hanno questa, permettetemi, arroganza che in alcuni casi in campo è un valore aggiunto, non c'è dubbio. Sempre per la cronaca, è partito naturalmente il Giro d'Italia, è in corso la prima cronometra, e poi ci collegheremo con l'Olanda e con Pieragusto Stagi per leggere le carte di questo giro. Sempre per la cronaca, in Serie B il Lecce oggi insegue la promozione matematica, ma difficile ce la faccia, sta pareggiando 1-1 ad Ascoli, Brescia 1 Ancona 0, Cesena 2 Padova 0, e quindi festa rinviata almeno per il Lecce. Stando così le cose, siamo sul finire delle partite. Frosinone vince 1-0 sul campo del Cittadella, Crotone in vantaggio 2-1 a Gallipoli, Grosseto 3-2 sul Piacenza, Mantova, Modena 1-1, il Torino sta vincendo 3-1 a Sassuolo, risultato importante, Vicenza 2, Empoli 1. Sempre quanto al calcio, Andrea, settimana non banale, dicevo prima questa, cominciata domenica sera all'Olimpico con quello che è successo, e oggi Rea ha parlato e ha detto cose molto sensate secondo me. Proseguita con una finale di Coppa Italia che sta durando ancora adesso, perché oggi ha parlato Ranieri e poi lo sentiremo, e gli ha risposto Mourinho via internet. Anzi, facciamo così, sentiamolo subito Ranieri e poi vi leggo le risposte di Mourinho. Ranieri oggi in conferenza stampa. Siete voi che lo fate diventare fenomeno, per me è un buon allenatore, e mi fermo qua. Io sono diverso, a me piace il valore dello sport. Piace il rispetto e do il rispetto. Troppo facile motivare, sentirsi gruppo, facendosi sentire attaccati da tutti e da tutto. Facendo così sono tutte bombe ad orologeria. A me questo non piace. Questo era Ranieri. Mourinho, come sapete, non parla prima del, ormai non parla più in campionato, però scrive sul sito internet del suo club e scrive questo: preparo calciatori, non gladiatori. I giocatori vengono motivati tutti i giorni con il lavoro del gruppo, allenamento dopo allenamento. Non si fa certo facendo vedere un film alla squadra prima di una finale di Coppa. I giocatori, scrive sempre Mourinho, sono professionisti seri, non vanno trattati come bambini. Noi abbiamo preferito lavorare sul campo e abbiamo studiato a fondo la Roma e i suoi punti deboli. Se prima di una partita metto la squadra a guardare il gladiatore, i miei giocatori si mettono a ridere o chiamano il dottore chiedendogli se sono malato. Questo scrive Mourinho, che poi aggiunge, sempre sulla tastiera del computer: non ho mai detto di essere un fenomeno, però non è certo colpa mia se nel 2004, dopo essere arrivato al Chelsea e aver chiesto perché stavano cambiando Ranieri, mi hanno risposto che volevano vincere e con lui non sarebbe mai capitato. Di questo proprio io non ne ho colpe. Beh, è sempre un passo più avanti. Tra l'altro, poi qui aveva fatto un intervento meraviglioso. Come fai a non condividere il fatto che a far vedere un film di quelli che fanno citare gli animi sia una stupidata, e spesso per davvero penso sia assurdo, anche se in realtà succede molte volte, succede. Però questo succede nei film. In realtà, secondo me, davvero gli giocatori dicono: ma cos'è, impazzito il mio allenatore? Quindi un intervento perfetto, e poi dopo non gli è mancato. Cioè, alla fine non riesce a stare buono. No, e si sente sfidato, un agonista se ce n'è uno. Solo che risponde sempre, devo dire, in modi molto pericolosi per gli avversari, per quello che ci pensano due volte a dire qualcosa contro. Sì. È vero però che anche Ranieri ha fatto un intervento, come fai a non essere con... Cioè, il rispetto è per davvero, l'unico difetto della parola rispetto è che è fin troppo grande. È un universo che tutti quanti un po' tirano come vogliono e viene fuori tutto. Poi il problema è riuscire a far sì che il rispetto prenda una forma quando si è in campo. Questo è rispetto e questo no, è su quello discutere. Sì, però rispetto è questo, però c'è anche il confronto dialettico che non è vietato. No, hai ragione, però i termini, tieni conto che il discorso dialettico adesso corre il rischio, essendo spesso mediatico, è fatica a portarlo avanti, perché in genere è la parola, è il senso, è quello che viene riportato, e quindi se in una discussione normale può accadere che tu abbia bisogno di replicare meglio o di spiegare meglio il tuo concetto, in queste lettere mandate non è possibile farlo, quindi è un po' complicato in genere chiarirsi le idee, e sono invece messaggi che sono destinati e sono costruiti per essere un messaggio di andata univoca al quale uno risponde, ma non con l'idea di mettersi d'accordo, semplicemente di difendere la posizione, per quello che mi sembra paradossalmente un non dialogo. Sì, no, è una zuffa a distanza. Esattamente. È una zuffa a distanza, però quello che ti dico è che anche fa parte dello sport comunque anche questo tipo di confronto a distanza, questo tipo di dibattito a distanza, questo tipo di... Guarda, ieri Sasha Georgievich mi diceva: io fossi stato il presidente di un club che gioca per lo scudetto contro Siena, io chiamo Minucci il giorno prima della finale e dico: guarda che io adesso ti faccio la guerra dialettica e dico qualunque cosa che mi serva per vincere. Questo, no? Il confronto tra Peterson e Bianchini, ci ritorno anche troppo spesso, il confronto tra grandi allenatori e motivatori, lo stesso Ferguson e Arsène Wenger non se ne sono mandati a dire molto spesso, insomma. Ma è corretto, poi se abbiamo già parlato, non è bestemmiare in un panorama piatto. So che proprio perché è pericoloso, perché comunque quando dici una cosa deve poi fartene responsabile, devi essere responsabile, spesso si preferisce stare zitti, non perché si sia d'accordo, ma perché la scelta è più facile, questo appiattisce moltissimo il dialogo, non si diverte più, e qualche volta è comunque esagerato, qualche volta è una sfida fine a se stessa fatta per portare a casa dei punti, come dire, psicologici, e basta. Adesso vorrei ripartire da un'altra dichiarazione di oggi, questa volta restiamo a Roma, ma non a Trigoria ma Formello, è di Reia sul tutto quello che è successo dopo e si è detto soprattutto dopo Lazio-Inter di domenica scorsa. Quando ho fatto il gol l'Inter, tutti in piedi ad applaudire, quando ho fatto le parate Muslera era criticato. Cioè, mettetevi voi nelle condizioni dei giocatori, a me fa incavolare il fatto che Lazio venga criticata, che i giocatori vengono criticati. Cioè, mette un'altra squadra nelle nostre condizioni, in quell'ambiente che si era creato, poi c'è da considerare che giochi contro una squadra che ha dei valori mondiali assoluti, no? Questo è direi, adesso molti si arrabbieranno, però il mio pensiero è questo e quindi lo dico. Si è fatta molta demagogia intorno a ciò che è successo l'altra sera all'Olimpico, intorno all'atteggiamento della tifoseria laziale e ai suoi striscioni, che di fronte ai quali io mi sono messo a sorridere, ti dico la verità, perché quel o no alzato al gol dell'Inter mi è sembrato onestamente qualcosa di intelligente e di geniale. Voglio dire, il calcio è anche questo. Secondo me il calcio è anche, non stiamo a parlare, fare grandi discorsi di sportività, il calcio è anche questo. Beh, diciamo che abbiamo mal sopportato i diversi pesi con i quali hanno valutato, sì, aspetti molto simili, quindi qui si tira fuori la sportività, si tira fuori i valori, perché una squadra effettivamente ha fatto una cosa assurda, antisportiva, ha tifato contro la sua squadra, sì, e questo effettivamente è chiaramente la bellezza anche di questo destino strano. Che è calcio, Andrea, come ti ricordavo prima, la stessa cosa hanno fatto nella civilissima, nella sportissima Inghilterra, i tifosi del Liverpool. C'era Liverpool-Chelsea 0-2, striscione dei tifosi del Liverpool: per favore batteteci. Guarda, io non sono tifoso di calcio, nel senso che non ho una squadra preferita e quindi in quanto tale mi permetto di guardarle così senza troppa partecipazione, ma nel momento in cui ho intuito che ai tifosi laziali veniva offerta l'opportunità paradossale che facendosi del male facevano più male ai loro nemici più acerrimi, mi sembrava che fosse degna di una trovata geniale di uno scrittore, che se me lo scrive in un libro non ci credo, perché dico no, non esiste, è inventata, e lì è accaduto. Dopodiché questo non serve a dire che i comportamenti sono sportivi, c'è stato qualcosa ovviamente di che è strano, che no, però lo no, lo scansamos, a me ha fatto sorridere, e non mi sono trovato a mio agio nel sentire questa alzata di scudi moralisti che non viene fatta allo stesso modo in tutte le occasioni del calcio. Sì, e poi voglio dire, io non sono tifoso laziale, però se viene Francesco Totti dopo il derby con il pollice verso a dirmi vi mandiamo in Serie B e io posso non farmi lo scudetto alla Roma di Francesco Totti, cioè in tutta onestà solo il moralismo mi può dire che questo non deve accadere, no? Giusto per tenere gli animi buoni, non stiamo dicendo che l'attuale mondo dello sport e del tifo, no, sportivo sia il mondo per... No, cioè è una situazione, qualcuno evoca il Palio di Siena, no? È calcio, è il Palio di Siena, il calcio è anche Palio di Siena. E anche in questo caso lo è, proprio più che in qualunque altro posto. Veramente, guarda che è straordinario, perché a Roma naturalmente c'è una rivalità che non ha uguali in tutta l'Italia. In tutta l'Italia, in tutto il mondo forse. E mi piace questa idea che facendoti del male in realtà fai ancora più male a quello che è il tuo nemico numero uno, è proprio una roba... Poi ci dimentichiamo, ma tu lo sai bene. Ma Pazzini è diventato leader dei laziali, certo, adesso, giusto? Certo. Quindi... Ho di là dei colleghi laziali che hanno Pazzini sullo screensaver. Cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Massimo da Roma, guarda un po', è già lì. Ma prima di Massimo, volevo farti notare un'altra cosa. Insomma, guardando anche agli altri sport, spesso accade che, ad esempio, nel disegnare la griglia playoff, come ti dicevo, nella pallacanestro o nella pallavolo che conosci benissimo, nelle ultime giornate qualche conto lo fai che non è proprio sportivissimo, no? No. Quasi mi conviene perdere la partita o mi conviene perdere il set oggi per trovare il tale avversario piuttosto che quell'altro. Poi magari l'altra lotta per salvarsi, fa punti decisivi, chi ha lottato per salvarsi prima e tu l'hai battuto si lamenta. Insomma, questi calcoli sono sempre sport. Sono parte dello sport, ovviamente in condizioni particolari. Se i campionati si assegnano con i playoff e i primi, la griglia è così importante e io ho un vantaggio straordinario, è un mio diritto in realtà decidere come gestire questo vantaggio. Dopodiché è vero che lo sport dovrebbe dire che ad ogni partita giochi al massimo per provare a vincere, però è un mio diritto. A quel punto ci sono alcune piccole possibilità. Per esempio, la Federazione Internazionale ha fatto sì che per evitare i calcoli troppo facili quei set si fa il quoziente punti. A quel punto, siccome è difficile fare i conti, e smetti di farli e giochi per quello che puoi. Ma se uno ha 8 punti di vantaggio e alla fine può decidere di usare un sistema di preparazione e di carichi di pesi diversi e di perdere qualche partita che avrebbe vinto in altre occasioni. Uh-huh. Però è così. Nei playoff, per esempio, questa è la ragione. Si perde un po' di spirito sportivo perché, guarda caso, chi vince i playoff è la squadra più in forma in quel momento, non quella che ha meritato di più nel, sì, corso della stagione. E quindi siamo nell'ambito delle scelte. Poi voglio parlare con te anche del V-Day che assegnerà lo scudetto di pallavolo domani. È successone, il V-Day dal punto di vista mediatico, del pubblico, dell'idea, che a me, te l'ho detto già da allora, piace molto. Sì, è in linea poi con i playoff. Abbiamo detto, quando fai i playoff significa che vuoi creare adrenalina nello scontro singolo. Tutti sperano di arrivare a partita 5, 3 su 5, e qui di fatto l'hai creata. La grande ingiustizia, la grande meravigliosa ingiustizia. Esatto. Massimo, buongiorno. Buonasera, sono Massimo e come immaginate sono un tifoso della Roma. Sì. E volevo fare un piccolo intervento inerente a Mourinho, alle dichiarazioni che ha fatto. Ma prima mi dica la sua sulla notte dell'Olimpico, la notte scorsa dell'Olimpico. Da tifoso della Roma, a parti invertite, lei cosa avrebbe detto, fatto, pensato, alzato? Sicuramente è stata una partita scontrosa da tutte e due le parti, perciò non vedo, è logico che condanno fino a un certo punto il fallo fatto di Totti su Balotelli. Non quella prima. Lazio-Roma? Lazio-Roma? Guardi, noi qui a Roma, io sono un tifoso della Roma, ultimamente non vado più allo stadio per motivi familiari, però noi qui, i tifosi della Roma, non ce l'abbiamo con i tifosi della Lazio, assolutamente, perché quello che avrebbero fatto loro sicuramente avremmo fatto noi. È chiaro che è sì. Chiaro. No, noi ce l'abbiamo, più che altro ce l'abbiamo con l'atteggiamento degli allenatori, dei giocatori, delle dichiarazioni durante la settimana di Lodito, che lui diceva, e poi preoccupatevi del Parma, che poi abbiamo visto il Parma come ha giocato contro la Roma, sembrava la finale di Coppa dei Campioni, contro i tifosi assolutamente, io ho tanti amici romanisti, lo sfottò qui a Roma ci sta tutto. Difatti anche tanti laziali, lo sfottò che ha fatto Totti Tito giù, no, non ce l'hanno tantissimi con Totti per quello, perché lo sfottò a Roma esiste esisterà sempre. I romanisti ce l'hanno con i giocatori che lo hanno fatto assolutamente, che poi assolutamente se la Lazio giocava magari l'Inter gli avrebbe fatto 4 gol, questo nessuno lo mette in dubbio, però mi sembra mi sembra un po' difficile separare così nettamente le due cose, l'atteggiamento dei giocatori, l'atteggiamento del pubblico. Oggi Rey è stato molto chiaro anche su questo. Ma ci sta, poi gli allenatori devono fare purtroppo delle dichiarazioni soft o cose, ma ci sta, io vivo sulla strada, io tutto il giorno sto sulla strada, faccio l'autista, faccio il tassista, perciò sento, parlo con la gente, tutto quanto, lo sfotto ci sta, tra colleghi, tra laziali, romanisti, lo sfottò c'è sempre stato. Noi romanisti non ammettiamo il comportamento avuto dai giocatori, e questa è una cosa gravissima questo qua. E poi però io volevo parlare anche un secondo di Mourinho, se permettete. Sì, dica. Allora io non ho mai sentito dire da qualcuno gli investimenti che ha fatto Moratti per arrivare a questi livelli. Non ci scordiamo che Moratti quest'anno a Mourinho gli ha comprato 6 giocatori di prima fascia e uno di seconda fascia. Allora io vorrei fare, no? Io vorrei mettere Mourinho a allenare una squadra di media classifica, Sampdoria, Palermo, il Genoa. Massimo, vorrei vedere che cosa fa. Sono d'accordo, però questo io la ringrazio del suo intervento, che è molto interessante. Questo però è un discorso un po' semplicistico, perché per vincere non bastano i soldi, ne stavamo parlando prima. Ci sono in Europa diversi allenatori cui sono stati presi diversi giocatori importanti e che non hanno vinto, non sono in finale di Champions League. Io credo che ci siano allenatori più adatti di altri a gestire grandi squadre, a gestire grandi personalità, a gestire grandi contratti. Mourinho è certamente uno di questi. Se poi diciamo, però voglio vedere se nella Sampdoria dove arriva, magari fa peggio di Del Neri, può infatti, essere. È vero, Moratti li ha fatti da anni questi investimenti e non si è vinto. Bravo. Il Real l'ha fatto quest'anno e non sono né a Madrid. Esatto. Però per esempio, interessante, tu sai che ho una passione per Ancelotti. Ancelotti è un altro che ha giocato in squadre che hanno investito molto, qualche volta sì, qualche volta no. Al Chelsea non è certamente una squadra di quelle economiche, però gestisce in un modo diverso. Ho l'impressione che sia un'altra strada per ottenere un risultato abbastanza simile, fare sì che la squadra reagisca come gruppo. Dopodiché Ancelotti non può certamente fare Mourinho, né lo vuole. Mourinho non può fare l'Ancelotti. Sta di fatto che Mourinho sta avendo però successi straordinari, perché per davvero, forse rischiando un po' l'idea della setta, ma l'Inter si sta muovendo come un gruppo di una compattezza mostruosa. E quindi alla fine lui il risultato l'ha ottenuto. La domanda potrebbe essere, nel momento in cui Mourinho se ne andrà, all'Inter. Cosa resterà di ciò che è avvenuto in questi anni? Una squadra con più convinzione nei propri mezzi, forse, con giocatori che hanno imparato la strada per arrivare fino in alto. La cosa importante sarebbe se la società è riuscita a cogliere i veri messaggi di questo percorso, distinguendo tra le cose belle e le cose invece inutili, però di grande fascino, di grande sfida mediatica. Se la società ha fatto questo passo in avanti, allora è un valore che rimane e che potrebbe aiutare la nuova personalità che arriva. Mi auguro che non prendano uno che cercherà di imitare Mourinho, penso non ci sia, quindi dovranno fare un salto verso qualche altra idea. Però questo potrebbe essere il grande vantaggio. In ogni caso, l'esperienza positiva che l'Inter ha fatto quest'anno, che sta facendo, ovviamente sarà patrimonio della società. Qualche volta potrebbe essere pericoloso o difficile riproporlo il prossimo anno, perché magari viene a mancare quello che effettivamente è stato, certo, il catalizzatore di tutta la situazione. Perfetto. Invece sull'altra opinione espressa dall'ascoltatore, tra poco torniamo a Roma perché c'è Antonio in linea, che è un altro ospite, su quanto diceva prima, noi tifosi della Roma capiamo i colleghi laziali, perché avremmo fatto lo stesso, però critichiamo l'atteggiamento della squadra. Questo è un po' difficile dividere. Questa la trovo un po' semplicistica, nel senso che effettivamente la relazione col tifoso laziale è diretta, e quindi lui ha confessato: io avrei fatto lo stesso, avrei fatto. Chiaro. Però non può neanche dire e va tutto bene così, perché rimane il dispiacere per un evento negativo. Quindi alla fine è come se la rabbia si scaricasse nei confronti di un ambiente diverso che quello dei giocatori. Ma quando Rey ha parlato, io mi sembrava dicesse delle cose assolutamente sensate. Cioè, non è facile giocare con i tuoi tifosi che addirittura ti criticano perché hai fatto una parata. Certo. Quindi certo, le due cose, in realtà, cioè, o li assolvi entrambi o li accusi entrambi. Esattamente. Non o assolvi tifosi e giocatori, pur, ripeto, in una situazione veramente paradossale, ma meravigliosa per questo. Però non puoi dire bravi i tifosi e no, i giocatori non vanno bene. Non funziona, non perché funziona. Tu romanista avresti chiesto la stessa cosa ai tuoi giocatori, e poi ai tuoi giocatori cosa chiedi a quel punto? Cosa vuoi della tua squadra? Diventa difficile. Perché tra l'altro il vero giocatore il muro, laziale, magari, io l'ho fatto anche un gesto più eclatante per far vedere che stavano perdendo apposta per far male. Il Di Canio dell'occasione, probabilmente. Portava la palla in porta con le mani. Esatto. Antonio, provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Io vivo in provincia di Roma e sono interista, quindi diciamo che essere interisti qui da queste parti difficile, è un po' difficile. Non è facilissimo, sì. E volevo fare i complimenti sia a lei sia all'ascoltatore che mi ha preceduto, perché dopo una settimana di cose molto meno intelligenti che ho sentito in radio, questa volta finalmente ho sentito qualcuno che fa un'analisi, forse perché è un po' più freddo, non ha caldo. No, ma non è un'analisi, è un'opinione, Antonio. È un'analisi che non ha nessuna pretesa di... Ma sentire un tifoso della Roma che dice che loro avrebbero fatto lo stesso... Ragazzi, chi dice il contrario dice una bugia. Chi dice il contrario dice una bugia, perché io non ci credo. D'accordo. Ok, va bene. Io volevo aggiungere due brevissime cose. La prima era, insomma, tra le cose meno intelligenti che ho sentito dire in questi giorni, ho sentito il presidente Sensi che si sarebbe vergognata di vincere in quel modo. Mi chiedo se si è vergognata di come ha perso la Coppa Italia, di come hanno giocato i suoi giocatori, in particolare Totti. E invece l'altro aspetto che volevo mettere in risalto è che sarà stato pure un clima strano quello di domenica scorsa allo stadio, però io c'ero e c'era una cosa bellissima. Sicuri che non ci sarebbero stati scontri, perché c'erano i tifosi gemellati, c'erano le famiglie agli stati, allo stadio. Ed era veramente tanto tempo che un interista che va allo stadio a Roma può andare con la famiglia senza avere paura di essere, insomma, di finire in mezzo ai casini. Diciamo, e però capisce bene che se questo si crea in una situazione così paradossale, c'è qualcosa che non va. In una situazione così estrema, c'è qualcosa. Sono d'accordo così, cioè c'è bisogno di situazioni estreme per essere tranquilli allo bravo, stadio. Bravo, questo significa forse che, bravo. Non è assolutamente possibile andare avanti così. Bravo, è vero quello che lei dice. Alla fine sono d'accordissimo, anche se l'idea stessa che solo se tra tifoserie gemellate si può essere tranquilli è per chi non è addentro. Tra tifoserie gemellate contro un nemico comune che è quello dall'altra parte del Tevere, sì, capisci? Sì. Però alla fine effettivamente l'idea era perfetta. Questo è il sintomo di quanto sia complicata la situazione attuale, perché non si può vivere in questo modo, non si può gestire in questo modo. Dunque, adesso dobbiamo fermarci per un breve stacco, subito dopo torniamo ai finali in Serie B. Ve dico subito che magari ci sono i tifosi del Lecce che fremono. Non è promozione matematica, anche se Lecce alla fine ha vinto 2-1 ad Ascoli, gol di Defendi al 47esimo della ripresa, però Il Brescia ha battuto 3-0 l'Ancona, il Cesena ha pure vinto 2-0 con il Padova a doppietta di Giaccherini, quindi festa rinviata appunto per il Lecce. Frosinone ha vinto 1-0 a Cittadella, a Padova con il Cittadella. Crotone ha vinto a Gallipoli 3-2, 3-3 tra Grosseto e Piacenza. Mantova-Modena 1-1. Il Torino alla fine ha vinto 3-2 a Sassuolo ed è una vittoria molto importante per il Granata. Vicenza batte Empoli 2-1. Ecco che torniamo, continuando a parlare, io Andrea Zorzi, con gran piacere con i nostri ascoltatori, 800 24 00 24, senza dimenticare che tra poco vi daremo anche le ultimissime dai campi della Serie A in attesa della giornata di domani, finalmente tutti a pomeriggio alle 15. A questo proposito io invece avrei qualcosa da dire sul, invece di addentrarci in questa polemica tutto sommato molto sterile, avrei qualcosa da dire sulla collocazione, sul disegno dei calendari, perché se vogliamo invitare le squadre ad un atteggiamento più sportivo, allora ha poco senso mettere una partita alle 15 e l'altra alle 20:30. Le facciamo giocare in contemporanea. Se me la devo pigliare con qualcuno, non me la piglio con l'Inter, con i tifosi della Lazio, con i giocatori, me la piglio con chi fa di questi impicci. La prova che la non contemporaneità è un problema serio è che il basket gioca due partite, le ultime due di regular season, tutti insieme. La pallavolo fa l'ultima tutti insieme perché si limita così, quindi è chiaro che gli interessi delle TV sono di natura diversa e non stiamo qui a parlare del perché, però la contemporaneità è sicuramente uno che intanto livella. E quindi se tu sai che c'è un problema di questo tipo, perché un problema di questo tipo esiste, allora devi avere la forza e la brillantezza anche all'ultimo momento e anche a dispetto di quanto le TV ti chiedono di pigliare la partita dell'Atalanta e pigliare quella della Lazio e mettere al pomeriggio, alla sera, alla notte, la mattina presto, quando vuoi. Attenzione, però che è una correzione in corsa questa, quindi quanto tale è un po' criticabile, perché in base a quali criteri definisci le partite a rischio, quindi sarebbe carino riuscire a trovare fin dall'inizio una regola che permetta di limitare più da... Dopodiché se no è un po' complicato riuscire di volta in volta a decidere per quali ragioni e quali sono le partite che meritano una contemporaneità. Le ultime 3-4, a parte le ultime 3-4 di campionato, le farei sempre tutte in contemporanea, però se sai che c'è una situazione di questo tipo, allora provvedi anche in corsa a rischio di fare una brutta figura. Però se dici il valore è quello della sportività, della correttezza totale dei campionati, eccetera, allora lo fai all'ultimo momento. Ma secondo te un tifoso laziale era disposto a barattare anche la retrocessione? Questa è una bella domanda. Retrocessione per lo scudetto, per mancato. Il mancato scudetto della Roma. E questo io non so rispondere, non so se i tifosi laziali qui presenti sapranno dare una risposta. Roberto da Latina e poi Renato da Roma. E il bacino magari d'utenza è quello, è oggi. Roberto, buongiorno. Buongiorno, ecco, allora complimenti come solito dalla trasmissione a tutti voi. Ecco, grazie. Volevo chiedervi soltanto questo, parlare di questo fallo di cui si è parlato per molto tempo di Totti a Balotelli. Io sono un tifoso della Roma e anche un grande estimatore di Totti, però vorrei cercare di essere neutrale e fare un'analisi un po' distaccata. Secondo voi Totti non è possibile che è arrivato a fare questo per un senso di frustrazione che ha maturato in queste ultime settimane? Sì. Un po' perché forse ha capito che ai mondiali non è andato, l'ho letto sui giornali che pare che gli sia stato comunicato quasi ufficialmente, è un po' per il fatto che la prima volta forse con questo allenatore, con Ranieri, che lui è stato sostituito per motivi non fisici e quindi è la prima volta dopo tanti anni che va in panchina per motivi non fisici. Roberto, cosa tra l'altro che io sinceramente, vedendo ancora come gioca, sarei ancora cauto a dire che è un giocatore finito, perché è uscito da un infortunio. Questo certamente. Cosa ti ho detto però prima? Ha fatto una lista perfetta delle ragioni per le quali Totti è arrivato. Esattamente quello. Tu hai aggiunto anche un'altra cosa in realtà. Quale? Che è un po' di arrabbiato per non aver giocato e come se si fosse permesso anche di alzare il rischio di un'espulsione, perché questo voleva dimostrare chiaramente a Ranieri che non era molto d'accordo nelle scelte del suo allenatore. Di questo sono però convinto. Per il resto, guarda, frustrazione, perché comunque ragazzi giovani crescono, perché non vinci, perché non vai in nazionale, perché il derby è così, perché è mancato scudetto. Sono tutte componenti che ovviamente fanno perdere di lucidità. T'ha messo in panchina all'intervallo del derby, eccetera eccetera eccetera. Io sono convinto che Totti, guarda, quando l'ho guardato in faccia entrando in campo, sarà che poi suggestioni, leggi le cose dopo eccetera, però aveva una faccia strana, ho detto questo ha qualcosa dentro. Oltretutto poi anche lì storia strana, è così vincente l'immagine pubblica degli spot di Totti che contrasta ancora di più invece con quella sorta di di tensione che è venuta fuori, perché Totti adesso in TV è veramente meraviglioso, un personaggio sì. positivo, sì, bello, sì. simpatico, bravo, un bravo attore anche, funziona alla perfezione. No, dai, si è detto correttamente, lui e sua moglie nuovi mondaini Vianello, sì. Televisivamente ci sta. Chiudo dicendo, non è che questa lista di buone ragioni per essere agitato giustificano il calcio di Totti. No, il calcio di Totti non ha alcun okay. tipo di giustificazione, non ne ha alcuno. Renato, Roma, buonasera. Buonasera, volevo fare un intervento su Mourinho, dire una cosa velocissima sul discorso tifosi laziali, tifosi romanisti, se avrebbero fatto la stessa cosa, eccetera. Io sono un simpatizzante romanista, quindi non sono un tifoso, non mi definisco tifoso, però vivo a Roma, vedo le due tifoserie. Non credo, ma ovviamente non abbiamo la prova, però non credo che i tifosi romanisti avrebbero tifato a favore della squadra avversaria e fischiato il loro portiere che parava. Questo francamente non lo credo. Io credo proprio di sì. Io credo proprio di sì invece. Io credo proprio, lei probabilmente è simpatizzante, quindi lei non l'avrebbe fatto. Molti laziali non l'hanno fatto, non l'avrebbero fatto. Io credo che non ci possa essere alcuna distinzione sulla base del colore che uno ha sulle sciarpe. L'atteggiamento della gran parte della tifoseria romanista penso sarebbe stato lo stesso. E sarei molto sorpreso nel constatare un giorno che verrà ci sarà un comportamento differente. Non lo credo proprio, non farei questo distinguo, non mi sentirei di fare questo distinguo. Poi non so. Poi Mourinho? Invece su Mourinho vorrei dire questo: io non metto in discussione l'allenatore, sicuramente, per quanto abbia allenato squadre molto importanti, ha ottenuto dei risultati, nessuno lo mette in discussione, ma da un punto di vista umano io rimango allibito da quello che dice, cioè umanamente a me sembra veramente inaccettabile avere a che fare con un allenatore che anche nei confronti di quelli che sono alla fine dei suoi colleghi si rivolga con questi toni, dicendo, come mi dispiace dirlo, sembra un bambino di 3 anni, dicendo io vinco e voi non vincete. Adesso l'ultimo intervento su Ranieri, sul Chelsea, c'è stata questa presa di posizione di Ranieri, per me a mio avviso condivisibilissima, e questo cosa risponde dicendo tu al Chelsea non hai vinto nulla. Cioè poi altra cosa, quindi proprio un esempio vivente di gravissimo cattivo gusto, a mio avviso. Sì, no, questo è condivisibile, è stato piuttosto villano come in altri casi gli è successo, però torno a ripetere, perché non siamo più abituati in un ambiente di piattume generale davanti a queste cose, insomma, rimaniamo come davanti ai marziani. Ed è sorprendente che si corra il rischio di pensare che Mourinho debba essere anche un esempio a prescindere. Mourinho è un grande allenatore, in quanto tale va valutato per quello fa la sua squadra, dopodiché ha una modalità molto aggressiva di gestione, sarà compito di chi non condivide questa gestione morale indicare a sé o ai suoi figli, guardate che non credo questo sia un modo corretto, però il problema è che a volte si tende a prendere come riferimento il comportamento, e quindi siccome Mourinho è vincente deve diventare anche un esempio, deve diventare anche un buono a modo suo. Io guarda, ricordo Andrea, sempre per tornare al basket, a famose diatribe passate, Peterson lasciò la panchina di Milano, Bianchini invece era ancora in pista a Pesaro, e in un confronto dialettico a distanza di questo tipo, no? Giornali, media eccetera, Bianchini disse: Franco Casalini, che aveva preso posto di Peterson, è il Robocop di Peterson, è il suo robottino, hai capito? Disse questo, quindi insomma, di fronte a queste cose, adesso lo dice Mourinho, rimaniamo trasecolati. Però sono confronti dialettici che secondo me fanno anche questi parte dello sport. Quantomeno da una dimensione reale di quelle che sono le parole che si dicono, senza essere esagerate, perché, ripeto, sempre il problema del peso che ha i mass media in questo momento, trasformano o tutto o niente, no, fa parte di quello. Poi c'è dell'altro, c'è chi si comporta meglio, c'è chi secondo me potrebbe essere un esempio molto migliore per mio figlio, e c'è chi invece è un allenatore straordinario, nonostante non sia quel profilo psicologico che io ritengo essere il migliore, ma senza che questo diventi un problema esistenziale. Assolutamente. Ora facciamo un salto da Giovanni Capuano per capire chi giocherà e chi no per la penultima volta in stagione. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Mi concentrerei sulle 3 partite che insomma che la gran parte degli appassionati tifosi sta aspettando: Chievo-Inter, Roma-Cagliari e Palermo-Sampdoria, derby per l'Europa. Allora, partiamo da Inter-Chievo, la rifinitura di questa mattina, poi Mourinho è partito per andare a Berlino a seguire la festa del Bayern di Monaco per il 22esimo titolo, ha detto che non ci saranno Cordoba, Lucio e Sneijder, i tre non sono stati nemmeno convocati, dai muri di Appiano Gentile filtra che Sneijder ci ha provato fino all'ultimo a convincere Mourinho e il suo staff a poter tentare un altro recupero miracoloso, ma questa volta è stato stoppato prima di tutto dal tecnico portoghese che comincia ad avere in testa anche la finale di Madrid e si è accorto che l'olandese è quanto mai fragile in questa parte finale della stagione. Dunque domani non ci sarà Sneijder, l'Inter però dovrebbe essere schierata comunque con un modulo ultra offensivo, con Pandev che giocherà un po' più accentrato al posto dell'olandese e con Balotelli detto sulle fasce, con Milito punta unica, Stankovic potrebbe aver vinto il ballottaggio con Thiago Motta come coppia insieme a Cambiasso Bassa nel centrocampo dell'Inter, mentre Materazzi e Samuel saranno i due centrali di difesa, di fatto gli unici due a disposizione di Mourinho, ci sarebbe anche Kivu che però è destinato alla panchina, questo per l'Inter. Sì, poi andrei alla Roma che gioca col Cagliari. Sì, per quanto riguarda la Roma, la finale di Coppa Italia, polemica a parte, ha lasciato qualche strascico anche in casa giallorossa, infatti Vucinic non si è allenato nemmeno oggi e non è stato convocato, Vucinic che si è fatto male nel contrasto con Materazzi nel primo tempo di Roma-Inter della finale di Coppa Italia, è possibile dunque che Ranieri scelga alla fine il 4-4-2 facendo giocare Totti e Toni, due punte, e allargando per Rotta e Taddei sulle fasce con Pizarro e De Rossi centrali a metà campo. In difesa Burdisso torna a essere schierato centrale, viene confermato Motta laterale di destro e Rise laterale di sinistro, torna in panchina Mexes. Nel Cagliari non dovrebbe partire dal primo minuto Kossu, che si è visto grattare una giornata di squalifica e dunque domani sarà disponibile. E per chiudere Giovanni, la partita che vale la Champions League, mentre io ho anche un messaggio che è questo, Marco da Genova. Da genoano dico che mi spiace aver pareggiato col Palermo all'ultimo secondo. Avessimo perso, avremmo fatto un dispetto alla Sampdoria. Capisco i laziali. Come la vedi, Andrea? La vedo che evidentemente i derby sono anche questi. Ma sì, i derby sono anche questi. Il calcio è anche questo. Interessante capire a quanto sono disposti a rinunciare. Interessante. Quello sì, quello molto. A un laziale, ma baratteresti un anno in Serie B per uno scudetto tolto alla Roma? Questo è interessante. Giovanni, questa partita per l'Europa come si presenta? Allora, partita che si presenta nelle parole di ieri dette dai due allenatori del Neri e degli Orossi, non ci sono grossi dubbi di formazione in realtà, nel Palermo Cavani sembra aver vinto il ballottaggio con Hernandez e ci sarà di fatto la formazione migliore, quella con Pastore dietro a Cavani e Miccoli, il terzetto di centrocampo confermatissimo, Migliaccio, Liverani e Nocerino, dietro insieme a Kier, centrale di difesa, gioca Goyan. Per quanto riguarda la Sampdoria, detto che ovviamente Pazzini e Cassano saranno i due che guideranno l'attacco della formazione blu cerchiata, ci sono un paio di dubbi a centrocampo che dovrebbero essere risolti con Guberti titolare e Manini in panchina per quanto riguarda la fascia sinistra e con Tissone invece preferito a Poli per uno dei due ruoli di interno di centrocampo, questo perché Tissone dà un po' più di garanzie dal punto di vista dell'esperienza rispetto a Poli, e quella di domani è una partita che si giocherà molto sui nervi, anche perché attenzione, tutti la indicano come il vero spareggio per il quarto posto e per il preliminare di Champions. In realtà Del Neri sa benissimo che in questo caso potrebbe avere un peso anche l'ultima giornata, soprattutto per la Sampdoria che ospita il Napoli. Sampdoria che all'andata contro il Palermo è stata fermata 1-1 al Barbera, ha una differenza reti peggiore del Palermo, quindi quando ieri Del Neri diceva noi andiamo a Palermo per vincere, probabilmente aveva in testa anche che un pareggio senza reti potrebbe forse non essere sufficiente alla Samp o comunque costringerla a una settimana di passione. Certo, perché il Napoli avrà sempre il solito scontro a distanza con la Juventus per allungarsi l'estate, come sappiamo bene, ed evitare i preliminari dei preliminari di Europa League. Grazie Giovanni Capuano, abbiamo una prima maglia rosa, vuoi sapere chi è? Volentieri. Pieragusto Stagi, dal Giro d'Italia. Ciao Carlo. Ciao Pieragusto, la prima maglia rosa del Giro è? È Bradley Wiggins. Ah, però. È campione britannico, quindi il Team Sky, questa formazione nuova voluta da James Murdoch, il figlio del grande magnate australiano, all'esordio in un grande giro, veste la prima maglia rosa con Wiggins, specialista del cronometro, grande campione della pista, era il grande favorito della vigilia ed è riuscito a fare meglio di 2 secondi del campione del mondo Cadel Evans, che quindi parte molto molto bene perché c'ha il numero uno sulla schiena ed è invece il grande favorito per la maglia rosa finale. I nostri italiani sono andati benino, non benissimo, primo italiano nono Marco Pinotti a 9 secondi, a 10 secondi bene Vincenzo Nibali, campione di squadra di Ivan Basso. Ivan Basso si è difeso, ha perso 23 secondi. E diciamo che tra i grandi big, appunto, quelli che mirano al grande giro, è stata una prova discreta, non eccezionale, ma neanche malaccio, visto che i cronoprologhi sono molto molto difficili, come certo. Tu ben sai, perché devi avere una grande posizione in bicicletta, una grande padronanza del mezzo meccanico, perché ci sono molte curve, perché devi saper certo. rilanciare la bicicletta. È un esercizio molto particolare, molto più della cronometro, diciamo, lunga. Il cronoprologo certo. è un'esasperazione della cronometro. Una sorta di equilibrismi su due ruote. E poi qui in Olanda, oggi la giornata bellissima, grande calore di pubblico, ma freddo boia perché ci sono 6 gradi, pioggia, intermittenza, strada bagnata, quindi ad esempio il povero Domenico Pozzovivo, piccolo scalatore lucano, che spera e sogna di poter arrivare perlomeno nei primi 5 in questo Giro d'Italia, è uno di quelli che ha messo il sedere per terra, è caduto in una curva, ha perso circa 25 secondi per questa caduta, in totale ne ha persi 50, per lui è stato una cronometro molto, disgraziata. Molto brutta. Sì. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo domani e in tutti i giorni che verranno dal Giro d'Italia. Grazie a Pier Augusto Stagi, dunque cronoprologo è andato così, Wiggins prima maglia rosa, era uno dei grandi favoriti per questo cronoprologo. Andrea, prima di salutarci, abbiamo ancora un minuto, a proposito di interrogativi interessanti, c'è Gianni Mura che sarà, secondo me, uno dei grandi protagonisti di questo giro, perché gli è stato affidato insieme ad Alessandro De Stefano il processo alla tappa. Io sono estremamente curioso di vedere i processi alla tappa di Gianni Mura. Lui pone un interrogativo, che è questo: un corridore squalificato per doping è marchiato a vita e quindi deve essere fischiato quando vince, oppure no? Fischiato magari no, marchiato, no, fischiato a vita no, è un segno che rimane. È un segno, è un difficile, eh? Bello argomento di dibattito. È un argomento anche perché sconfina un po' nella parte etica e morale. Sì. Nel senso sì. che il perdono, che dovrebbe essere la base di partenza, farebbe pensare che si può cambiare del passato. Ciò nonostante, nello sport effettivamente qualche volta i segni rimangono e ci si attacca spesso a volentieri questi segni. Verissimo, e per questo, per interrogativi come questo, che sono molto curioso di seguire i processi alla tappa di Gianni Mura. Dunque, io prima di salutarvi voglio ricordarvi una cosa, una nota di servizio. L'ho già fatto ieri in Palaspicchi, lo rifaccio, lo rifarò domani, perché venerdì prossimo sarà nostro ospite Andrea Bargnani, direttamente da Toronto dai Raptors, sarà con noi per Palla Spicchi, però per questioni tecniche vi chiedo di, se volete intervenire telefonicamente, di scriverci una mail a tempodisport@radio24.it, scrivendo nome e numero di telefono, saremo noi a richiamarvi, questo per questioni tecniche che non sto a spiegare più nel dettaglio. Insomma, se volete parlare con Bargnani fate così, mandateci una mail, poi vi chiamiamo noi. E invece non andate a Bologna domani, perché il V-Day è già pieno, tutto esaurito. Non c'è più niente da vedere, quindi finale tra Trento e Cuneo, leggero vantaggio ma leggero sui pronostici per Trento, un 53 contro 47. La cosa interessante è che ci sono 3 giocatori di Cuneo che hanno vinto lo scudetto con Trento un paio di anni fa. Trento gioca col secondo palleggiatore e ha appena vinto la Coppa Campione Europea, quindi questo è il sintomo di quanto Trento negli ultimi 3-4 anni abbia segnato la pallavolo italiana, ed è per quello che è un po' favorito, campione del mondo, campione d'Europa, ed è davvero una squadra che sta facendo grandi passi in avanti. V-Day domani, ripeto, grande idea, purtroppo siamo in chiusura di programma, siamo andati avanti a parlare altre 3 ore con Andrea Zorzi, con i nostri ascoltatori, ma non c'è tempo. Grazie Andrea, alla prossima. Ciao a tutti. Questo per dire che devi tornare presto. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, Carmelo Lauricelli in regia. Domani giornata sportiva completa dalle 5 alle 7 con il calcio e gli altri temi, e poi 8 e mezza 9 basket aspettando la finale di Eurolega.